Marco, Marco, vai Marco. Quando tu mi aggredisci, sì, chi ha colpa e chi ha ragione è evidente. A quel punto non puoi essere tu il giudice che decide con quanta e quale forza io ti devo rispondere. Ma che follia dici? Quello era nel diritto romano, ma c'è stato qualche secolo dopo. Imbecille, imbecille di Luca. Lei è ritardato, è un'offesa che non offende me, ma le persone. Lei è un gran maleducato, perché in realtà con questo non offende me, si qualifica per quello che è dandomi del ritardato, capito? Imbecille, coglione, maleducato. Maleducato. Ha detto ritardo cognitivo. Maleducato cretino. Hai un ritardo cognitivo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se mi dici che gli animali sono diversi dall'essere umano, non capisci un cazzo, perché scientificamente non è così. Ma scusa, quando c'era il Giurassico, il Triassico, dove cazzo era l'uomo? Noi in famiglia avevamo una gatta storica. Questa gatta viene a mancare improvvisamente. Cosa ha fatto? Mia mamma l'ha messa nel freezer fino al lunedì mattina. Lunedì mattina siamo arrivati e abbiamo dato una giusta sepoltura. Ma dai, ma per favore, ma Cruciani, ma questa è follia. Ma qua siamo alla follia più totale. Ragazzi, qui si difende questa sera il signor Massimo Giletti sotto attacco dei napoletani, o comunque di una parte di napoletani, chissà quanti, perché secondo me invece molti, moltissimi napoletani la pensano come il signor Giletti, il signor Massimo Giletti. Per chi non sapesse nulla di questa polemica, per chi non sapesse nulla di cosa è accaduto, no, ieri, ma sanno tutti, sanno ma tutti. Non è detto, non è detto, per chi non sapesse nulla di quello che è accaduto in una trasmissione che si chiama L'Arena, beh, Rai 1, 4 milioni di telespettatori, dunque la trasmissione è molto, molto popolare, non c'è dubbio. E questa è la frase incriminata, addirittura il signor De Magistris, il sindaco di Napoli, incazzato come una biscia. Poi sentiremo tutto. La frase incriminata è questa. Di cosa si sta parlando? Si sta parlando di una vicenda di cui ci siamo occupati anche noi qui alla Zanzara, cioè dei consiglieri comunali di Napoli, i quali si battono fino alla morte perché vogliono i biglietti gratis per entrare allo stadio, perché dicono lo stadio è del comune, eccetera eccetera. A un certo punto la discussione trascende, sentiamo. Dobbiamo parlare degli investimenti che non si fanno al sud, però lei non ne può parlare. Allora, voi non fate questo tipo di interventi perché la RAI non li può fare, perché la RAI non vuole parlare del meridione. Senta, questo non glielo permetto, perché la RAI allora, ha gente che fa un lavoro straordinario, non solo io, e allora, voi iniziate a far andare avanti la vostra città, fatela mettere a posto, che è indecorosa in alcuni certo, punti, abbandonata, e se lei esce dalla centrale della stazione trova solo immondizia in tutti i vicoli, e i cittadini onesti di Napoli stanno ancora aspettando che qualcosa si pulisca. Lei non dia regole alla RAI, perché la RAI ha fatto un grande lavoro andando anche a raccontare con film e fiction i problemi della Campania. In trasmissione c'era anche Salvini. In trasmissione c'era anche Salvini. C'era anche Salvini, il quale dava manforte. Quello non se ne perde una. Dava manforte, a, a Giletti su questa roba qua, eh. Per cui nella critica ci finisce anche Salvini. De Magistris, datemi De Magistris. A parte che la coppia Giletti-Salvini, prima di parlare di Napoli e dei napoletani e di questa città, si dovrebbero sciacquare la bocca, perché la cultura di questa città è millenaria. Ma chi se ne frega della cultura millenaria? Giletti ha detto una cosa precisa che mi pare talmente ovvia, talmente ovvia che non è nemmeno il caso di discuterne. Cioè, c'è una situazione di degrado. Lui parla di che cos'è che parla Giletti? Parla delle zone attorno alcuni punti stazione della città in ma cui. Ma guarda, qui sono quattro sciamannati di Internet. Cioè no, ma non caso, è Internet, è De Magistris. Che cazzo c'entra Internet? Ci sono le istituzioni che si è arrabbiato. Ma un sacco di giornalisti napoletani. Twitter, queste stupidaggini qua. Basta due coglioni che su Twitter scrivono vergogna, attaccano Napoli, che tutti poi diventa il caso. È così. Allora, altro personaggio oltre a Giletti è il signor Tavecchio, presidente della Federcalcio, il quale non può sopportare questa trasmissione perché gli abbiamo fatto un piccolo scherzetto con Moggi, ma risale un anno e mezzo fa, ma ce ne faremo una ragione del fatto che Tavecchio non ci ama, certamente non è l'unico. Signor Tavecchio, il quale ha pronunciato delle frasi in una intervista molto orripilanti. Orripilanti, d'accordo, ma chi se ne frega. Ma ha detto uno ebreaccio e un altro. Ma per te è normale? Ma no, non è normale che il presidente allora, orripilanti, si può dire orripilanti allora. Sì, ma ha detto ebreaccio. Però chi se ne frega. Beh, l'ambasciatore di Israele, per esempio, è andato in suo soccorso, in suo aiuto, dicendo che ha fatto delle cose per la federazione israeliana. Dunque non è che se l'è presa. Adesso non se la prende l'ambasciatore di Israele e se la pigli, e te la pigli tu. Guarda che ma mica io sono mica l'unico. Ma non c'entro. Non è questo il punto. Ha detto un'altra cosa Tavecchio sui gay. Ha detto io sono normalissimo, stiano alla larga da me. No, bisogna stare lontano anche dagli ebrei. Poi che vuol dire bisogna stare lontano dagli ebrei? Non lo capisco bene. Comunque, la migliore fotografia di Tavecchio è sicuramente Crozza. Come commenta la condanna a 6 mesi che la UEFA gli ha inferto dopo le sue frasi razziste? Rispetto alla sentenza, certo, anche se non ho detto niente di razzista. Beh, insomma, ho solo detto che quegli tipo va, che mangiano le banane. Ecco appunto, non. Ma cosa c'entra? Anche io le mangio le banane. Certo, sì. Le banane sono buone, magari. Certo. Non le vado proprio a raccogliere sull'albero come loro? No. A noi ci arrivano quei camion. Ecco, ma però non peggiori la. Che loro no. Hanno proprio queste dita prensili sui, no, sui, no, piedi che si arrampicano sui baba. Come le donne con in giro con la gonnellina. Non tocchi le gonne. Una in giro con la gonna troppo corta fa vedere la penelessa. No, allora. Che poi è chiaro che poi se la cerca un po'. Ma non era l'occasione. Non dico che la donna che è handicappata. Ecco. Che poi il laboratorio abbiamo dimostrato che è handicappata veramente. No, che non anche no. Se sembrava che poi non, che no. Poi non lo è handicappata. No, infatti. Ecco, no. Questo volevo dire. Viva il campionato, viva il calcio italiano. Oh, ha finito Tavecchio? Sulle suore che portano sfiga, dico niente. No. Cioè, questa fu geniale assolutamente. Un anno fa, un anno fa. A proposito di Roma, c'è una cosa che voglio farvi sentire. Allora, Orfini, che è il commissario a Roma, nonché il presidente del Partito Democratico, diceva a giugno queste frasi qui. È abbastanza impressionante la cosa. Giugno, Orfini contro le dimissioni. Giugno, non 40 mesi fa. Giugno, cioè 4 mesi prima. Le dimissioni di Marino, cioè la defenestrazione di Marino da parte dello stesso Partito Democratico. Orfini a giugno. Dimissioni, ma assolutamente no, è un'ipotesi che non esiste. Quelli che chiedevano di allontanare Marino erano i mafiosi, diciamo, quindi allontanare Marino sarebbe applicare la linea alle richieste di Puzza e Carminato. Cioè, allora, chiedere le dimissioni di Marino e sposare la linea di Buzzi e Carminati. Certo che è veramente incredibile. Poi cambia tutto. No, ma è d'accordo, la politica cambia sempre. Ma addirittura dire che chi voleva la dimissione di Marino è un mafioso ed è la linea di Buzzi e Carminati. E poi invece senti l'altro giorno così, come se nulla fosse, Marino non aveva capito che c'era la mafia a Roma. Cioè, certi politici hanno veramente la faccia come il culo. Io e Stefano Esposito abbiamo salvato Roma dallo scioglimento per mafia perché ci siamo accorti in 15 giorni di quello che Marino in 2 anni e mezzo non aveva capito e visto, cioè che a Ostia c'era la mafia che infiltrava probabilmente l'amministrazione guidata dal Partito Democratico. Allora ragazzi, però qui veramente, cioè, alcune cose vanno sempre. Ogni volta che Orfini va in televisione a parlare di Roma, uno dice: amico mio, ma 4 mesi prima pensavi che chiedere le dimissioni di Marino era sposare la linea della mafia, e adesso mi dici invece che Marino era praticamente non sarà accorto di nulla ed era una specie di burattino lì che non si accorgeva della mafia. Dai, su, ma quando è troppo, dai. Matteo Salvini con noi, buonasera, eccoci. Buonasera. Come andiamo? Andiamo bene, il giorno dei morti, ricordo le mie nonne e i miei nonni. Come le tue nonne e i tuoi nonni? Oggi sono i morti. Sì. Parenzo, sei morti oggi? tu li festeggi no, morti il 2 novembre che ne so io, Matteo, io no. Non ha cambiato anche il calendario, è il 2 novembre, quindi io non li festeggio, ma pensiero a chi mi ha tirato su, conosco la festa, non la festeggio ma la conosco, certo. Conosci, perché non festeggi la festa dei morti, scusa? Perché non è la mia festa, la festa del calendario. Ah, tu sei l'ebraccio di dice quello che piace tanto a te. No, esatto, non ho detto questo, non dire cazzate, quello non che dire ti cazzate. Diverte, no, no, no, e che no. Giustifichi. Non sto giustificando nulla. Malignamente, non sto per puri fini radiofonici. Ma dire ebraccio è un'offesa, cioè questo è... No, dire ebraccio. Non occorre neanche fare un sondaggio, credo. Non lo so, se dire uno lo può dire anche in privato, si dicono tante cose, anche io ti faccio una battuta, tu fai l'ebreo, no? Ma non è che ti offendi se ti faccio una battuta. Ma tutto, però tu quello che non capisci sono che i Tavecchia contesti. È presidente della Federcalcio. No, dice. Ma non capisci la differenza tra i contesti in cui vengono fatte. No, dici fatte che Tavecchio, ma tu lo cacceresti Tavecchio, Salvini? A pedate nel culo. No. Perché? No, perché io lo giudico per come gestisce quello per cui è pagato. Poi può fare delle battute di pessimo gusto, evidentemente. Io non conosco bene il mondo della federazione, gioco calcio, sei in attivo, sei in passivo, quanto costa agli italiani. Cioè tu dici che uno, anche se uno... Non voglio giudicare su quello, uno può essere più o meno volgare, più o meno simpatico, devo capire come fa il suo lavoro. Poi no. La politica, si occupi di politica, non, per carità di Dio, ci manca giusto che mettano le mani pure sul pallone che ha già tutti i suoi casini, le sue corruzioni. Ma infatti Renzi, che vorrebbe intervenire per cacciare a pedate nel culo Tavecchio, ci manca giusto quello. Renzi ormai sta occupando ogni tombino, cioè non occupi, di potere, non occupi il calcio, dici, non occupi anche il calcio, almeno sta occupando tutto l'occupabile con i suoi amichetti. Però scusami, non ci fa fare una bella figura, tra l'altro. No. In Israele no, cioè, no, evidentemente in Israele no. Un giornale israeliano pubblica le frasi di Tavecchio, tra l'altro mettendo una foto che è quella di Crozza, non di Tavecchio. Non so se sia una scelta di quanta stima ricopre. Non so, no, magari poi in un momento in cui Israele è sotto attacco e quotidianamente ci sono accoltellamenti e non è che ha fatto una no, roba contro Israele. Tavecchio, anzi, secondo me è una vigliaccata far uscire ste robe qua. Se erano un colloquio privato, ognuno nel privato può essere di pessimo. C'è una vigliaccata contro Tavecchio. Tavecchio lombardo, tra l'altro. È una conversazione . Privata, voglio dire. Io non so cosa diciate voi parenti fuori onda, però non mi interessa quello che vi raccontate fuori onda. Cioè tu pensi, come dice lui, che ci sia una specie di complotto contro Tavecchio? Non conosco né l'uno né l'altro. Dico semplicemente che il tizio Tavecchio va valutato per come fa girare il mondo del pallone e non per battute infelici no no, poi detto questo io sto con Israele, punto. Vabbè, ma quello non è che ha detto. Senti, che volevo capire, non è che Israele va bombardata ma no, ha ragione lui, quanto couscous hai mangiato in Marocco? Couscous no, però carne, pesce, piatti tipici, non mi ricordo come si chiamano, e ho trovato un paese per certi versi molto più evoluto dell'Italia, molto più tollerante, ordinato. Ma che ordinato, sì. In che senso? Ma sì. C'è la Padania lì in Marocco, no? Non trovi quelli che fanno casino alle 2 di notte, tu puoi girare per Casablanca o per Marrakesh alle 2 di notte. Vabbè, ma te credo. Che ho una giustizia un po' più severa, diciamo, per usare un eufemismo. Non c'è stato di diritto lì. Ma il problema è che poi mi hanno detto che i marocchini che vengono in Italia, alcuni, perché sono 700.000 la grande maggioranza delle persone, fanno i casini che fanno che non se li fanno a casa loro, perché qua hanno l'impressione di poter fare quello che vogliono, tanto nessuno. Ma ho capito, però sono in Marocco le leggi sono abbastanza severe. In Marocco quest'anno cresce del 5%, mentre Renzi festeggia lo 0,9%. Vabbè, adesso non è un modello di democrazia il Marocco, adesso francamente. Se gli piace il Marocco. Lì il ladro, il rapinatore, lo spacciatore fa una brutta fine, non c'è il dibattito sull'eccesso di legittima difesa in Marocco. Cioè dici, dobbiamo sulla giustizia, dobbiamo prendere esempio dal Marocco, tu dici. Faremo Salvini per Marrakesh, la nuova lista. A scuola, sulla certezza della pena impariamo da Marocco. Sì, non so bene quali siano le pene previste dal codice marocchino, però credo che siano abbastanza dure per i ladri. Guarda, non credo. Penso che ci sia un dibattito fra il pensionato marocchino che uccide il rapinatore se ha sbagliato, se ha ecceduto. Lì viene festeggiato probabilmente il pensionato che si difende. Beh, oddio, l'altro forse viene decapitato, forse. Non so se ci sia la pena di morte. No, non lo so. E la seconda religione professata è quella ebraica. E quindi sono molto più tolleranti e meno ipocriti di noi. Quindi ma quello che nascondeva la seconda famiglia nel garage, che cos'era? Marocchino in Italia, eh? Hai letto questo? Egiziano, la seconda famiglia nel garage. Purtroppo la primavera araba e l'estremismo islamico e i musulmani. L'ho trovata meravigliosa quella roba lì. È una follia. Sì, ma certo che è una follia, non c'è dubbio. Metta in garage a dormire per settimane tre bimbi piccoli e la seconda moglie che falsa. è veramente solo. Però diciamo Italia. Due famiglie ce n'hanno parecchi in Italia, due famiglie. Certo, non li tengono, non li tengo. A dormire nel garage, un bimbo di 3, uno di 5, uno di 7 anni a dormire nel garage. No, dai. No. Fermi lì. Dopo che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Vabbè, ma Parenzo, lascialo perdere, che io gli voglio bene a Parenzo, ma non ci capisce in cazzo. Allora, ragazzi, siamo qui 800 24 00 24, come ogni lunedì Matteo Salvini ai nostri microfoni. De Magistris, sindaco di Napoli, ha detto che devi sciacquarti la bocca prima di parlare di Napoli. Vabbè, c'è una polemica con Giletti, eccetera, eccetera, per quello che è successo ieri. Non mi dirai che è meglio Marrakech di Napoli adesso? Eh? È più ordinata Marrakech di Napoli? O Casablanca? Salvini? Ma per certi versi anche di Roma e Milano. Per cui di Napoli, no, vabbè, ma questo, se io fossi sindaco di Napoli, più che fare polemica con Giletti, mi preoccuperei di pulire le strade, riaprire le scuole, sgombrare le case popolari occupate dai camorristi, sistemare il traffico, i mezzi pubblici. Mi stai dipingendo Napoli come una fogna? Mi stai dipingendo Napoli come una fogna? Beh, insomma, chiama a raccolta i napoletani all'ascolto e fatti dire se è il massimo o se pure ci sono alcuni piccoli problemi a Napoli. Denunciare quali è l'interesse dei cittadini napoletani per bene. È il record europeo di truffe sui falsi incidenti d'auto. È il record italiano di multe stradali non pagate. Cioè, il rispetto della legge per qualcuno è un hobby, e questo a discapito della maggioranza. Per cui che cos'è? Terzo mondo, che Napoli? Hanno un sindaco che è un poveretto. Ma Napoli è terzo mondo? È Italia o no? No, cioè, non è terzo. Ma Napoli è Italia, mi piacerebbe che fosse messo un po' meglio. Ma come Milano in alcuni quartieri e come Roma in mezza città. Perché hai definito Giletti un grande giornalista? Cioè, non è un po'... Un bravo giornalista. Perché fa parlare tutti. Vabbè, quello, a volte ci sono delle trasmissioni dove non si capisce un accidente e poi parla di alcuni temi sconosciuti, le case popolari occupate abusivamente, l'acqua che non esce dai... Cioè, è la tua trasmissione preferita, dico, tra tutte le trasmissioni. No, io televisione non ne guardo, quindi, però lui ci vai, infatti. No, ci vai, perché ci vai, perché non hai tempo di guardare, perché tu la fai. Il fenomeno che mi chiede quanto ci guadagni, gratis ovviamente. I politici non possono essere pagati per andare in TV, no, tranne che non siano di sinistra la Varoufakis, però no, è un ex politico. No, ma i politici in Italia non possono essere pagati. No, ma certo che non possono essere pagati, lo so, però Varoufakis era... Ma perché Putin non lo pagheresti per andare a domenica? Io lo pagherei, se potessi ospitare. Tu lo sai, Parenzo, che vogliono fare, a proposito di giustizia, ho letto oggi una notizia molto interessante. Vogliono fare le stanze per scopare in carcere. Stupenda, l'ho trovato. Stanze per fare... Sì, giusto. Un tizio ex... Guarda che esistono... No, ma io sono d'accordo, io sono d'accordo. Le stanze cosiddette dell'amore, in cui le donne in carcere... Perché lascia perdere? Se dobbiamo preoccuparci delle condizioni carcerarie, giustamente preoccupiamoci delle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Sì, ma anche una cosa non esclude l'altra, che c'entra? Fa meno di fare quella roba lì per il tempo che... Cioè tu dici, finché stai in galera non trombi. Ma dai, adesso ti devo pure pagare vitto, alloggio e ti devo permettere anche di fare... Ma che c'entra? Adesso chiameranno quelli, diranno Parenzo. No, però scusami un attimo, io su questa cosa, però, in molti paesi esistono delle sperimentazioni. Certo. Perché se uno deve stare in galera 5 anni, che cazzo fa, Matteo? Scusami, pensa prima di andare in galera. Cioè non può sfogarsi non può sfogarsi sessualmente, tu dici. Soprattutto in Italia, per finire in galera per 5 anni devi proprio combinarne tutti i colori, visto che non... Comunque è anche vero, Parenzo, che è complicata questa cosa, perché come fai poi a controllare che... Perché siccome dicono che i video e gli audio non sono consentiti, naturalmente, perché altrimenti si creerebbe un archivio, come fai a capire se la moglie non ti dà delle informazioni? È un po' complicata. Ma dai, stai scherzando. C'è un disegno di legge di Zan, quel deputato del Partito Democratico, più altri, non è una cosa... Perfetto, ma riapriamo civile. Le case chiuse e cancelliamo la legge Le galere, dire. Senti, Berlusconi dici di avere già il nome per Milano, bello e pronto, è vero o non è vero? Io non lo so, a me non l'ha fatto, quindi anche se io più passano i giorni, più mi rendo conto che non dobbiamo aspettarci gli uomini della provvidenza a Roma, a Milano, a Torino. Io penso che sceglieremo gente normale. Vabbè, questo l'hai già detto una volta, un tassista, normale. Vabbè, ma vuol dire? Che vuol dire gente normale? Non ha bisogno dei top manager, dei top... Ma anche perché quelli non si vogliono candidare, questo è il punto, e guadagnano troppo poco e c'hanno troppi questo, casini a fare sì. È anche vero, ma se uno deve fare il sindaco mica glielo devo chiedere un marocchino per favore, a Milano, ginocchio, un marocchino, No, ma ho capito, ma uno normale, ma chi allora? C'è questo nome che dice che Berlusconi ha per Milano, chi è? Lo conosci? Non lo so, chiedetelo a lui, me lo chiedi a me il nome. Che ne so, ogni tanto ci parla con Berlusconi. Sì, ma non mi ha fatto il nome. Non, sì, ma poi lo sai che devo dirti la verità, questa cosa che interessa solamente gli addetti ai lavori, quella dei nomi, ma chi se ne frega, quando sarà il momento sarà il momento, dai, su. Facciamo che per un mese parliamo. Vabbè, però voi trattate, però voi trattate anche di quello, eh. Ciao Matteo, a presto. Ciao. Parenzo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Peccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché non ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Bravissimi tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'ovvietà. Cusani. Dobbiamo ridere, bisogna dire puttanate perché abbiamo bisogno di ridere. Ragazzi, c'è un nuovo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la carne, eh? Caro Parenzo, stai attento a questa cosa qui. Dopo una grande ricerca condotta in 120 paesi, sì, che ha coinvolto 500 ricercatori, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata a questa conclusione. Se tu la sera, dopo cena, mangi ogni sera, bisogna essere precisi su questa cosa qui. Se tu ogni sera, dopo cena, mangi un chilo di gelato ingrassi. Non è possibile. Ti giuro, sono arrivati a questa conclusione. Organizzazione Mondiale della Sanità. Se mangi ogni sera dopo cena un chilo di gelato, anzi dicono è molto probabile, non è sicuro che ingrassi. Vabbè, certo, sì. Beh. Io dico solo una cosa, magari non andrà fino in fondo, è troppo poco perché dovrebbero toglierli tutti, strapparli con le mani, toglierli da un giorno all'altro e farsi dare magari in alcuni casi anche gli arretrati, dico io, eh. Però dico solo forza Boeri, avanti Boeri, il presidente dell'INPS, che non ci riuscirà, magari avrà contribuito a lanciare un altro segnale, a gettare la proposta che ha fatto, però 50% in meno, lo stavo per dire, 50% in meno per i vitalizi dei parlamentari oltre gli 80.000 euro lordi. Per i vitalizi i tagli sarebbero abbastanza consistenti, noi proponiamo di equiparare i vitalizi a delle pensioni e quindi diciamo che per importi dei vitalizi superiori agli 80-85 mila euro all'anno si possono prevedere anche delle riduzioni che arrivano fino al 50% dei vitalizi. Rimarranno solo chiacchiere, amici miei, voi che siete all'ascolto, voi che siete in macchina, voi che siete con le vostre amanti, con le vostre donne, con le vostre mogli, voi che siete nei camion, voi che siete nei bar, rimarranno soltanto parole, perché figuriamoci se riescono a togliere il 50% di quella vergogna che si chiama vitalizio, che è una vergogna assoluta, figuriamoci se lo possono togliere, perché si appelleranno ai soliti diritti acquisiti. I diritti acquisiti, mentre la gente normale non ha alcun diritto acquisito. Per perché ovviamente quando tu perdi il lavoro non c'è nessun diritto acquisito che si può mantenere, quando ti devono tagliare la pensione te la tagliano lo stesso, magari fanno bene, però non c'è il diritto acquisito. Invece per le pensioni dei parlamentari, chissà che, non solo per le pensioni dei parlamentari, ci si appella al diritto acquisito. Cioè, se una cosa è una vergogna che resta tutta la vita, perché c'è un diritto che non finisce mai. Allora, mi è capitato di vedere ieri Domenica Live, c'era questa battaglia incredibile tra Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, chiamato per la seconda domenica consecutiva, evidentemente gli ascolti si sono impennati. Volano. Amico mio, non è che chiamano Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, ex RAS di Taranto, così a caso, a combattere contro il signor Diaco. Lo chiamano apposta perché fa ascolti, non c'è dubbio. Hanno visto la curva? No, per carità, per spiegare. Hanno visto la curva che si alza e hanno riproposto lo perché stesso. Sa la gente della curva, la curva glicemica, la curva degli ascolti. Gli anziani all'ascolto conoscono la curva glicemica. Sì, certo, hai ragione. Sì, adesso per spiegare, la curva degli ascolti si alzava e dunque hanno richiamato Diaco Cito, il quale, dopo aver riproposto la solita polemica sul vitalizio, da un certo punto di vista ha ragione Cito, perché lui che è stato condannato a vari reati, gli hanno tolto il vitalizio, ma o lo tolgono a tutti, no? Non, l'hanno tolto invece solo a quelli condannati oltre 2 anni, eccetera, eccetera. Salvando la maggior parte dei politici, peraltro Cirino Pomicino, Sgarbone Nostro, eccetera, eccetera. Però a un certo punto ha dato a Diaco praticamente dell'omosessuale. Cioè, siccome Cito non vede di buon occhio gli omosex. Ma il signor Diaco dica quello che ha dichiarato a Forum di chi è lui nella realtà e fatemi parlare, cioè, per cortesia. Cioè, sarei una realtà cosa ho dichiarato a Forum? Io dico, non lo dica, lo dica, zitto, lo dica cosa ho dichiarato a Forum. No, lo dica, lo pretendo, lo ma dica. Lei lo deve dire. Lo ma non dica, devo dirlo io. Lo dica. Ma dica lei, lo dica lei. Cosa lo dica. Lo dica in diretta. Non devo dire. Lo dica in diretta. La dica. Mi fa parlare. Lo dica. Mettiti un dito in bocca, sentimi dica, a me, per così piacere. Sereno, lo dica. Credo che Diaco dichiarò di essere bisessuale, se non sbaglio, una cosa di questo tipo, Mi fa parlare due minuti dica, o no? Lo dica. Ma che devo dire? Che devo dire? Ma non mi ha detto lei che mi fa parlare due minuti, mi fa parlare cortesemente. Allora, se non dice cosa ha detto a Foglio, io vado via da questo studio, perché non capisco che ci sto a fare a parlare con uno così. Cioè, francamente. Cito. Cito. Ma Battin proprio dall'Italia, va. Vada via dall'Italia. Battin dall'Italia. Che personaggetta. Va bene, ragazzi, 800 24 00 24. Poi a un certo punto Diaco torna, Cito con la D'Urso, dai. Luigi, vieni un attimo, fai inutile che tu stia sulla scala dietro. Lui ti chiederà scusa. Ti chiede scusa, Pierluigi? Io non chiedo scusa a nessuno, perché non ho detto niente. Vieni qua, Pierluigi. Io non chiedo scusa a nessuno. Va bene, Vincenzo da Roma, 800 24 00 24. Vai Vincenzo. Buonasera, sono Enzo Riccio del Partito del Sud. Partito del Sud, perché esiste il Partito del Sud? Esiste un Partito del Sud, informatevi. Esiste anche il Partito. Va bene, va bene. Esiste anche il Partito dei Minonna. Una ricerca su Google. Partito del Sud. È un paese strano dove il Partito del Sud fa specie. E invece la Lega Nord, movimento razzista a cui putate il sempre Partito spazio, del Sud che difende la parte più ricca e normale. Comunque, sì, con molta calma, vorrei dire che De Magistris ha fatto benissimo a difendere Napoli, che sta migliorando in questi ultimi anni e ha gli stessi identici problemi di altre grandi città come Roma e Milano. Milano non può dare certo lezioni di morale dopo gli scandali che ci sono stati. Vincenzo, se tu dici da napoletano, immagino che risiede a Roma, sono che Napoli, napoletano che risiede a Roma. Benissimo, quindi, se tu dici che Napoli ha gli stessi problemi di altre grandi città, secondo me è una follia. Ha alcuni problemi comuni, ma Napoli non è la stessa cosa, dai. Napoli ha i suoi problemi e nessuno. Sì, ma non è, tutto. Ma sono problemi specifici. Tu, non ho detto più gravi o meno gravi. Non si può fare una trasmissione giornalistica. Cioè quell'arena di Giletti. A Napoli come si scrive. No, stavano parlando di un'altra cosa, stavano parlando dei consiglieri comunali di Napoli. Ha parlato della spazzatura fuori dalla stazione. È quello che lui vede, è quello che lui vede quando scende a Napoli. Quando arriva a Napoli. Perché può essere che lui non gira per Roma, dove la spazzatura è sversata sulla infatti, quando c'è stato il casino della spazzatura a Roma, tutti quanti hanno attaccato il sindaco Marino, la gestione, eccetera. Vorrei dire all'onorevole Salvini di fare prima un'analisi di coscienza sul vicepresidente della sua regione, che è stato condannato, prima di dare lezioni morali agli altri, e di andare a guardare anche i dati Istat, che i dati Istat dicono che per reati non è certo Napoli la città più pericolosa d'Italia, ma è Milano. Vincenzo, auguri al Partito del Sud. Carmine da Napoli, vai. Carmine, tu, Massimo da Lecce, dai. Massimo, pronto? dimmi Massimo. Sì. Dimmi. Buonasera innanzitutto, chiamo da Lecce, io non questo sono di Napoli. Non sei di Napoli? Non sono di Napoli, assolutamente. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Però anche qui, dai. Io adesso mi iscriverò innanzitutto al Partito del Sud, perché condivido in pieno tutto quello che è stato un detto annuncio clamoroso, dall'interlocutore. Un annuncio incredibile, faccio parte anch'io del Partito del questo. Sud. Dimmi. Salvini si deve veramente vergognare, perché nel 1860 Garibaldi ha permesso al nord di stravolgere e di saccheggiare il sud. Ah, questo qua è un neoborbonico sicuro. E non glielo dico, anche un'altra storia. Questo qua è anche neoborbonico sicuro. È stato sottratto al sud. Sottratto, con certo. L'unità d'Italia. L'unità d'Italia. È servito a costruire il triangolo industriale di Torino. Telefoni a Rai Storia, però guardi. Scusi. Pronto? La devono restituire. Massimo da Lecce. Tutto quello che è successo. Ma chiami Rai Storia. No, le spiego. No. Succederà adesso. Le do il numero di Rai Storia, così telefona, aspetti, Perché lupi formigoni la sanno molto lunga, più Rai lunga di De Magistris. Va bene, Massimo, Cesare da Milano, vai Cesare, dimmi. Dunque, ebraccio per me non è una parolaccia rivolta a tutti gli ebrei. È come se io dicessi: tu Crociani sei un tipo. Invece Parenzo è un tipaccio, perché Parenzo mi è antipatico, lui personalmente è un tipaccio. Ebreo non è una parolaccia, non è assolutamente una parolaccia. Un ebreo malvagio. Scusi, è un dispregiativo, adesso non voglio fare una lezione di italiano. Alcune frasi sono abbastanza ovvie. Lui parla di un tizio che si chiama Anticoli, che ha acquistato un palazzo della Federazione Dilettanti dallo stesso Tavecchio, o comunque dalla federazione che rappresenta Tavecchio, e dice: è un ebreaccio, non ho niente contro gli ebrei, ma meglio tenerli a bada. Cosa significa tenerli a bada? Non lo riesco a capire. Secondo la mentalità di Tavecchio, è dispregiativo. Ma no, è su un antisemita, no. Mi sembra troppo. Dai, no. Oggettivamente. Ma che cos'è allora? Ma un antisemita sono quelli che hanno un lungo pedigree di antisemitismo. Uno che dice una cosa del genere in una conversazione. È un recondito che c'è in molti. Vogliamo denunciarlo in tribunale? No, vogliamo portare alla sbarra? Non lo so. No, che vada a quel paese lui. E poi, dopodiché, dice: è dispregiativo anche, e basta. Ma non c'è neanche da discutere, ma è vero che è omosessuale, parlando di un altro tizio? Io non ho nulla contro gli omosessuali, però teneteli lontani da me, io sono normalissimo. Ne voglio dire, dietro l'altro, voglio dire all'amico Tavecchio che tra un omosessuale e il signor Tavecchio, forse è quello che dice Tavecchio, per come dire, ci appare Tavecchio, quello normalissimo tra molti amici omosessuali che ho e che ha anche lui, quelli normalissimi forse sono loro, così vorrei dire solo questa cosa, signor Tavecchio. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Programma non dovrebbe chiamarsi La Zanzara, è una linea erotica gratuita. Ragazzi, la Zanzara è finita sul Guardian, quotidiano britannico, e su altri giornali inglesi per la vicenda di Giorgetti, che è il vicepresidente del Veneto, dunque una figura molto importante in una regione molto importante dell'Italia, il quale, come sapete, per il suo compleanno ha ricevuto una torta in cui c'era il fascio littorio e il simbolo dell'SS. E poi lui ha detto che in realtà questo simbolo non l'ha nemmeno visto, erano degli schizzi di panna, no? Degli schizzi di panna sulla torta. Noi l'abbiamo interrogé, l'abbiamo interrogato, interpellato, intervistato, fate il cazzo che volete, e lui ci ha detto che lui, che sostanzialmente Mussolini ha fatto bene, è stato uno, ha modernizzato l'Italia, a parte due cosine piccole piccole, che sono la questione degli ebrei, cioè le leggi razziali, e sostanzialmente quello che dicono tutti quanti, come dire, nostalgici, no? Ha fatto bene tranne l'alleanza con Hitler, classico. L'alleanza con Hitler e che cazzo era l'altra cosa, le leggi razziali. Ma lei qualche cosa del fascismo la salva o no? Ma io fino alle leggi razziali sicuramente, cioè fino alle leggi razziali è stato un buon governo, diciamo. Sì ha modernizzato l'Italia. Guardi, la maggioranza degli italiani la pensa come lei. Sulla maggioranza degli italiani ci sarebbe da discutere, però a me fanno impazzire i giornali inglesi che sono molto sintetici, no? A senior official, non mi criticate l'accento perché non mi rompete i coglioni, quello di Renzi. A senior official in Northern Italian region of Veneto has defended a birthday cake, eccetera eccetera, poi dice: no, I'm not resigning, non mi dimetto e non mi vergogno per il simbolo fascista. Massimo Giorgetti told the radio show La Zanzara. Bellissimo. Massimo Giorgetti told the radio show La Zanzara. Va bene, ragazzi, 800 24 00 24. Carmine Napoli, l'abbiamo recuperato, vai Carmine. Pronto? Dimmi Carmine. E allora ti volevo dire questo. Sì, però togli il viva voce o quel cazzo dove sei, perché non si sente, sennò dai. Allora, ascoltami, io volevo dire questo. Innanzitutto che sono d'accordo con Giletti. Oh, meno male. Perché? Tra l'altro con Giletti abbiamo un appuntamento telefonico adesso alle 19.45, 19.50, sempre se risponde, naturalmente. Però ci spiegherà tutto, la sua posizione, perché non torna indietro, almeno così mi ha detto al telefono quando ci siamo messi d'accordo. Poi magari si rimangia tutto, eh. Vai Carmine, allora. No, ma non deve tornare indietro, perché quello che ha detto. Cioè, tu sei napoletano. E io dici che Giletti ha fatto benissimo, ma è normale, sì, ragazzi. Ma che ha detto? Sì. Ha detto che in alcune zone c'è degrado e quando esce dalla stazione ti metti paura. Ma è normale, una cosa perfino banale. Vorrei aggiungere altre cose. E se poi qualcuno ha la forza e la volontà di mandare, non so, una troupe televisiva, dovete sapere che Napoli deve essere la città della legalità da quando state Magistris. Bene, prima di De Magistris c'erano abusivi, i parcheggiatori. Ma quelli ci sono sempre stati e credo che ci sono adesso, ancora. Ma non solo, ma adesso stanno anche sulle strisce blu. Cioè tu, oltre a pagare la striscia blu, trovi qualcuno che ti dice con tutta tranquillità, nonchalance, si può avere un caffè, ce lo fate prendere un caffè. Sempre con quell'atteggiamento. Vabbè, quello però esiste pure a Milano, amico mio, ogni tanto, ogni ma sulle tanto. Strisce blu. Sì, anche sulle strisce blu. Io lo trovo un assurdo, cioè io trovo. Sì, effettivamente era di Napoli questo qua che era sulle strisce blu, però comunque. Ma lasciamo stare dove. Però voglio dire, io sicuramente la città la trovo veramente lasciata a se stessa. Non parliamo di sporcizia, ma è quello che voleva di dire di fuori cani, ma è quello che voleva dire Giletti, di quello che ragazzi. Sta intorno alla stazione. Ma è quello che voleva dire Giletti? Ma di che, perché se la prendono? No, ragazzi, no. Il Consiglio Comunale di Napoli per due giorni ha discusso dei biglietti ai consiglieri comunali, che hanno trasformato per loro responsabilità lo stadio di Napoli che dovrebbero gestire in un cesso. Parole pronunciate dal sindaco di Napoli e dal presidente del Napoli. Daniele da Modena, vai Daniele, vai. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo, siete grandissimi. Dimmi volevo Daniele. Volevo riconnettermi solo al discorso dell'OMS. Che vuoi ancora? Praticamente questo è l'allarmismo che è stato dato fuori, secondo me è tutto strumentale, perché in realtà vogliono farci abituare l'idea di mangiare gli insetti, di mangiare. Ma nessuno vuole farci abituare l'idea di mangiare insetti, Daniele. Secondo dai, me su. Sì, perché pensa a quello che è successo col sushi, ad esempio, che faceva schifo solo l'idea di mangiare del pesce crudo. Adesso tutti vanno a mangiare il sushi almeno due volte alla settimana. Vedrai che tra un pian pianino ci faranno entrare anche. Ma chi è che fa schifo mangiare il pesce crudo? Ma cosa dice? Il pesce crudo non piaceva a nessuno all'inizio, perché diceva è viscido, non riesci neanche a masticarlo, mandarlo. Vabbè, allora sarebbe un complotto contro che sì, cosa? Come i cinesi, così diventiamo produttivi esattamente come i cinesi e la nostra economia verrà rilanciata da questo tipo di alimentazione più ecosostenibile. Vabbè Daniele, ciao, ciao. Paolo da Padova, anzi Rocco da Roma, vai Rocco. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Volevo parlarti di anche io di Onest. Dimmi Rocco, dai, forza. Devo capire come mai continui a sminuire quello che l'OMS invece ha dichiarato. Io non sto sminuendo niente, è stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità che il giorno dopo ha detto che era un po' esagerato, che non era, cioè che i rischi di cancro restano sempre gli stessi, eccetera. Cioè, ovviamente. Non c'è nessuna novità, questo è il punto, non c'è alcuna novità su cose che già sappiamo, cioè che mangiare in modo esagerato alcune cose può far male. Può far male, punto. E questo è il punto fondamentale, non c'è niente di nuovo. Perdonami, è come dire che fumare 40 sigarette può far male, però anche fumarne una fa male. Sì, beh, ma non c'è niente di nuovo. Allora, capito? Però perdonami, perché tu poi continuamente insisti nel dire, che ne so, guidare il motorino a petto nudo fa venire il mal di gola? Perché l'OMS ha detto l'ovvio, e dunque altre ricerche, per esempio ho scovato questa ricerca oggi in cui dicono, oltre quella del motorino, in cui dicono che mangiare ogni sera un chilo di gelato dopo cena fa ingrassare. Questa non ci credo, perdona, ti giuro, vai a vedere una grande ricerca in 150 paesi con 200 scienziati per dimostrare che mangiare un chilo di gelato ogni sera fa ingrassare. Può far ingrassare. Può far ingrassare, anzi, perché c'è sempre il condizionale. Io credo che voi fate. Ma tu sei vegano? Scusami, Rocco. Sei diventato vegano. A parte che mi hanno detto che molti ci ripensano. Uno su due ci ripensa. Inizi col veganesimo, ti accorgi che non puoi campare, non puoi resistere. E poi ti mangi i bisonti. Però io dopo 50 anni di onnivoro o carnivoro. Io la cosa che mi chiamano carnivoro non la posso sopportare. Sei carnivoro, ti giuro, non la posso sopportare. No, ma perché ti guardano, anche tu me lo dici, come dire, tu sei carnivoro. No, sei carnivoro. Anzi, mangi ancora la carne. Sì, mangio ogni tanto, mangio la carne. Mi faccio una bella fiorentina, mi faccio una bella cotoletta alla milanese. Punto e basta. Poi come tutti cerco di non mangiare carne ogni giorno, ma come non mangio la pizza ogni giorno, anche se le mangerei a pranzo, a cena, perché adoro la pizza, me la mangerei ogni giorno, ma non lo faccio, altrimenti divento una botte, mi sento male, eccetera, eccetera. È molto semplice, cioè. Se poi tu vuoi diventare vegano perché ti senti meglio, va benissimo, l'importante è che non guardi me come una specie di pazzo, come una specie di persona inconsapevole, come uno che inquina il mondo, perché così fanno questi. L'assassino. Posso dirti una cosa? E mi sono rotto i coglioni di questa roba qua. Hai perfettamente ragione. No, ma non ho ragione. Secondo molti amici tuoi vegani, no, siete una setta pazzesca. Ma guarderei male me stesso per 50 anni, sono stato un cretino allora. Cioè io mi capisco. Anche l'altra cosa, tu sei stato un cretino per 50 anni allora? No, ho detto, se ipoteticamente criticassi te nel mangiare la bistecca, io mi sono goduto anche gli arrosticini, i miei sono di Pescara e me li sono goduti, ancora mi ricordo di capra, di agnello, perdonami, di pecora. Pescara. Io sono allora? Morale, non massacrateli, secondo me, i vegani. Ma io non massacro nessuno, io massacro le follie. E poi comunque, ragazzi, cioè, quello che viene detto in televisione, poi ascolteremo più avanti delle cose, siamo all'assurdità. Qui siamo arrivati ai respirariani, caro Parenzo, cioè siamo arrivati a quelli che dicono che si nutrono di respiro, che si può campare anche solamente respirando. Ragazzi, la dose quotidiana di del governatore del mondo voglio, la dose quotidiana del governatore del mondo, De Luca, per il momento solo governatore della Campania. Bindi. Sì, appunto, ecco, lei ha... Rosaria Bindi. Sì, sedicente Rosi. Sì. Impresentabile sotto tutti i punti di vista, con quei baffetti sul labbro, privo di ceretta. Ecco, appunto, definirla in questo modo, no? Non le sembra un po' eccessivo? Impresentabile, Rosaria. Sì. Nomignolo esotico. Ma non è esotico. Quelli che si usano anche per gli uragani. No. Sta arrivando il tornado Rosi. Rosaria detta presidente dell'antimafia. Non detta, è presidente. Ruolo che purtroppo la distoglie da altre mansioni a lei più adatte, tipo ruolo di graffetta o di fermaporta all'androne. Ecco, se potesse non insultare. Cosiddetta Rosaria si è permessa di dire che nelle mie liste elettorali c'erano degli impresentabili. Vabbè, l'ha detto, ma ecco. Liste in cui i candidati nelle vene non avevano sangue ma acqua sorgiva, proveniente da alture incontaminate. Adesso però non esagero. Candidati cui gli unici processi che avevano in corso erano quelli per la beatificazione. No. con noi l'uomo del giorno, caro Parenzo, travolto dalle polemiche su Napoli, Massimo Giletti. Ciao Massimo. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Senti Massimo, il sindaco di Napoli, De Magistris, ha detto che tu devi sciacquare insieme a Salvini. Sei cazzato. Devi sciacquarti la bocca prima di parlare di Napoli. Ma no, io capisco che poi siamo tutti in campagna elettorale, Napoli lo è in modo particolare, quindi si accomuna Giletti a Salvini, però sono due situazioni totalmente diverse. Il problema è un altro, bisognerebbe ascoltare bene le trasmissioni prima di commentare. Cioè io sono un po' deluso dai titoli che ho anche visto, no? Hanno scritto Giletti, due punti, Napoli città indecorosa. Indecorosa, sì. Ma io non l'ho mai detto. Ho detto che la classe politica degli ultimi anni, che ha creato delle situazioni abnormi a Napoli, anziché fare consigli comunali su biglietti gratis, per avere biglietti gratis, giusto o non giusto allo stadio, si occupasse di alcune zone della città che sono zone degradate, che sono indecorose per la bellezza di Napoli. E l'immondizia ad ogni vicolo intorno alla stazione centrale. Io non ho usato queste parole, ho detto venite, girate intorno alla stazione centrale, per esempio attraversate alcune aree della città e certamente non le trovate a livello di quella che è una città come Napoli. Un dato di fatto, un dato di Napoli fatto dovrebbe avere. Scusa un attimo, ma quando tu arrivi a Napoli alla stazione, che cosa vedi intorno? Ma, sai, la sensazione di, non è solo lì, io giro Napoli a piedi perché viaggio dei vicoli e vedo. Chiunque venga a vedere, non è una città che si presenta. Guarda, per esempio, se tu nella zona nuova davanti al municipio, hanno fatto una bellissima piazza adesso, no? Sì. Peccato che non abbia neanche messo i cestini dei rifiuti, per cui la gente butta tutto per terra perché non sa dove mettere la roba. Sì. Cioè, sono dei piccoli esempi, ma il degrado. Poi le persone, che ne so, la gente senza casco, queste robe qui. Ma sai, e queste sono documentate ovunque. Cioè, ti dicono che hai semplificato, cioè che hai generalizzato e attaccato alcune cose che a Napoli, per carità, ci sono state, che adesso magari ci sono meno, parlando di indecorosità. Ma io, aspetta, Massimo, risentiamo queste due frasi. Aspetta. Dobbiamo parlare degli investimenti che non si fanno al sud, però lei non ne può parlare. Allora, voi non fate questo tipo di interventi perché la RAI non li può fare, perché la RAI non vuole parlare del meridione. Senta, questo non glielo permetto, perché la RAI ha gente che fa un lavoro straordinario, non solo io, e voi iniziate a far andare avanti la vostra città, fatela mettere a posto, che è indecorosa in alcuni punti, abbandonata, e se lei esce dalla centrale della stazione trova solo immondizia in tutti i vicoli, e i cittadini onesti di Napoli stanno ancora aspettando. Allora io dico una cosa, ragazzi, indecorosa in alcuni punti, qualcuno può contraddire questa roba qui? Qualcuno può dire che non è vero quello che dice Giletti? Qualcuno può dire che sulla stazione centrale, tu evidentemente quando ci vai lo puoi guardare, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti. Cioè, ha detto delle cose talmente ovvie che dire addirittura, come dice De Magistris, Massimo, che c'è un agguato politico-mediatico nei confronti dei napoletani. Questo dice De Magistris, oltre a dire che devi sciacquarti la bocca, capito? Ma guarda, De Magistris è libero di dire quello che vuole. Io però penso che uno debba ascoltare, sentire le trasmissioni, non parlare per sentito dire. Dopodiché, io avevo invitato De Magistris a venire in studio, vorrei che fosse molto chiaro. Ha scelto, come altre volte, di non venire, nella sua perfetta libertà. Sì. Ma se uno va nelle zone vicino a Scampia, ci sono delle strade interamente in mano a bande di nomadi che hanno occupato addirittura i pezzetti di strade che dovrebbero... Ragazzi, ma dire che è indecoroso in alcuni punti mi sembra talmente ovvio che è un'accusa ai politici che l'hanno amministrata. Io dico ai napoletani che vogliono capire e ascoltare, non vogliono essere strumentalizzati, si rivedono il pezzetto che hai fatto sentire tu e poi capiscono, perché allora se no... Cioè ti dici i napoletani sono con... tu dici i napoletani alla fine sono con me, la maggioranza dei napoletani mi dà ragione. Ma io credo che chi ascolta le mie parole sente che cosa ho detto. Cioè ho detto... i napoletani secondo te si riconoscono in quello che hai detto o nelle critiche che ti hanno fatto? Ma io direi, uno basta che vada in giro e chieda ai napoletani se sono contenti della come ha gestita la loro città. Se secondo loro è pulita, se secondo loro in alcune aree non c'è un degrado, c'è un senso di insicurezza. Dunque nessuna scusa da fare. Ma io devo scusarmi di che cosa? Io ho detto appunto nessuna scusa. Faccio anche su Roma, quando abbiamo attaccato Roma perché ha delle zone degradate, ha delle zone abbandonate. Non attaccavi i romani. Capitale, non attaccavi i romani. Sì, attaccavo un sistema politico che poi abbiamo visto purtroppo ha gestito malissimo questa situazione. Senti Massimo, ti devo fare un paio di domande però, oltre questa vicenda qua. Tavecchio, secondo te si deve dimettere o no dopo quello che ha detto in questa intervista? No, io credo che l'Italia debba avere ai vertici dei propri organismi delle persone che non cadono in questi trabocchetti. E dunque se ne deve andare. Livello, e poi è un problema di culturale, di livello culturale che non mi sembra adeguato. Adeguato. Tu puoi dire delle frasi orribili anche in un bar sport, ma non quando sei uno di quel tipo lì. Che dà una... Senti, tu li paghi gli ospiti o no? Ci sono alcuni ospiti che hanno un contratto minimo di rimborso spese, perché se vengono da fuori vengono pagati. Certo, come è normale, le grandi star televisive che vengono d'accordo, ospiti, hanno un minimo di accordo, ma se Dio vuole noi costiamo veramente poco. So che è una cosa Rai, ma 24.000 euro per Varoufakis, se è un errore o come dice qualcuno invece un investimento? Mi fa venire un po', mi fa un po' l'effetto che dico, pensate Fassina che gli danno forse il caffè alla macchinetta lì, quei panini che danno. Ecco, mi viene Beh, perché Fassina, questo è vero, Fassina che se fossi Fassina mi incazzerei. Senti, ma tu mai in politica? Non è che no. so che ti ha offerto Berlusconi di fare il sindaco di Torino, ma se Del Debbio vuole fare il premier, tu che puoi fare? No? Beh, Del Debbio comunque viene dalla politica, quindi sa bene com'è la politica, io cerco di guardarla, ma preferisco il mio lavoro. Mai. No, mai, non si dice mai, ma il mio lavoro mi piace molto, quindi lo faccio, cerco di farlo meglio possibile. Cioè mai dire mai dunque? Never say never. Never say never. 007 in giro adesso, quindi va bene così. Ciao, ciao Massimo, ciao. Grazie ciao, a voi, ciao. Ciao. Provincia di Napoli, ragazzi, io non riesco ad andare contro Giletti su questa cosa qua, cioè quando uno dice una cazzata sono qui pronto a massacrare, a picchiare duro, eccetera eccetera, però Giletti ha detto una cosa praticamente ovvia. Adesso si può discutere sulla seconda parte della frase, quella in cui dice esco dalla stazione e trovo i vicoli pieni di immondizia, magari in alcuni momenti sarà così, in altri no, eccetera. Certo non regna l'ordine, certo non regna la pulizia, certo non regna, no, la Non è la Svizzera, dai, su. Dai, su, dai. Paolo. Pronto? Dimmi Paolo. Allora ti volevo dire una cosa, che all'anima è che è morto di Giletti. Sì. Volevo sapere se Giletti da quanto tempo è che manca da Napoli. Ma non lo so, ma lui dice che ci va, Ma e poi pure quell'altro signore, no? Quell'altro signore che ha parlato, quel napoletano che ha detto io hanno ragione, ma che hanno ragione i corna che c'hanno, da quanto il figlio non esiste? Il turismo è aumentato 20 volte tanto, e da dei giorni che nella zona di Santa Chiara 20 volte il turismo, ma di che stai parlando? Ma viene a vedere, pieno, come che fai? Non viene a testimoniare tutti nel sabato. Paolo Listat, chi è questo? Vabbè, Paolo, dopo queste statistiche meravigliose su Napoli, trasformata da De Magistris, che dobbiamo dire? E che dobbiamo dire? Che Giletti si vuole mettere in politica. Ma no, si candiderà con la lei. È un attentato per il popolo che gli hanno fatto a De Magistris. Un attentato all'anima di chi De Moro? Come no, lo stanno preparando, siccome no. Com'è all'anima? Bombardare, no? All'anima di chi De Moro? Com'è? Di chi De Moro è quello lì che diceva di scambiare, signor Giletti. Te no, tu sei un vile figlio di puttana, tu metti in ridicolo i grandi industriali, i poveracci, tu sei in gamba a fare cose, sei in gamba tu. Ma che voce a tutto, mi sta dando voce a me. Niente, tu riesci a mettere sul Ciuccio Bianco sia Barilla, a Giorgetti, che è il semplice cosa. Tu investitore sai fare, no? Vabbè, Paolo, allora che vuoi dire dopo? Voglio dire che non è giusto quello che hanno detto su Napoli. Il problema a quanto volevo dire una cosa, a Milano sono 360 le autorità che prendono il biglietto, quelle di Milano sono superiori come autorità a queste di Napoli. No, c'è un'altra cosa però, è vero che in ogni città dove lo stadio è gestito dal comune, i consiglieri comunali hanno diritto a un tot di biglietti, secondo me è sbagliatissimo. Non si capisce. Io posso dire tranquillamente che qualche volta sono andato allo stadio con un consigliere comunale qua a Milano, tranquillamente, dunque ne ho usufruito anch'io indirettamente di questa cosa, però non ne sono responsabile, cioè se li togliessero non farebbero un soldo di danno, naturalmente. Se non è che hai rubato niente. Non ho rubato nulla, no, in particolare, cioè cerco di limitare al massimo la richiesta di biglietti. Hai usufruito di un privilegio che ti è stato... Ma no, un privilegio no, mi hanno invitato, mi hanno invitato. È un privilegio però, voglio dire, molto male. Non è un privilegio, che c'è? Non è che hai rubato il posto a qualcuno. No, però è diverso da fare un dibattito al Consiglio Comunale su mantenere o no i biglietti gratis. Dai, quando decidete di farlo senza fare un dibattito pubblico con gente che si scanna. Paolo, che vuoi aggiungere? No, non è così, ti volevo dire una cosa. Tu mi spieghi perché a Milano 360 sono le autorità il doppio di Napoli. Cosa che io non sono d'accordo con Angelo. Ma cosa le autorità che devono a Milano la devono togliere di dare tutti, la devono smettere di dare tutti quei biglietti. Punto e ma basta. Questo è chiaro. Lo diremo, no? Adesso faremo una ricerca anche noi su quante persone hanno diritto al biglietto. Ma per quanto riguarda la lista della Zanzara, la migliore sigla l'ha fatto quella Parenzo. Ti saluto, Cruciale mio, buona serata e buon lavoro. Sì, ciao Marco da Catania, vai Marco. Ciao Marco, Cruciani, dimmi. Ciao. Oh, mi hai messo napoletani, hanno rotto le cosiddette, sempre le vittime. Io sono di Catania, sono del sud e quando ci sono problemi sono il primo ad ammetterlo, a vedere le cose che non vanno. Loro invece sempre a fare le vittime e non capiscono che facendo così si fanno arrabbiare le persone di più ancora. Hanno rotto le palle, hanno scassato la minchia, come si dice qui a Catania. Sì. No, Marco, io su questo sono d'accordo con te. Cioè, ogni volta che qualcuno dice una parolina di più su Napoli, in questo caso l'ovvio, cioè si scatena la canea e la coppia Salvini-Giletti contro Napoli. Di che stiamo parlando? Se uno dice una cosa ovvia, cioè che alcune zone sono degradate, punte, e poi se la pigliava il povero Giletti con se la pigliava con quei consiglieri comunali che invece di discutere di Napoli discutevano del loro ingresso allo stadio San Paolo, che hanno trasformato in un cesso. Ma Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vano. La Zanzara. Was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up. Ragazzi, ho pensato bene a questa proposta da parte di un deputato omosessuale, peraltro, del Partito Democratico, ex SEL, cioè uno che era prima con Vendola e poi è passato a Renzi, che si chiama Zan, che è di Padova, di istituire una specie di camera dell'amore, di camere dell'amore nelle carceri italiane, cioè anche i carcerati, come c'è in altri paesi peraltro, devono avere diritto di trombare. Questa è la sostanza delle cose, di avere rapporti intimi, di incontri intimi con delle persone. Io in realtà sono d'accordo su un'altra cosa. E che con i soldi loro devono pagare delle prostitute. Cioè, questo sarebbe il top assoluto. Beh, sì. Ma non hanno soldi. Sì, cioè, già chi l'ha detto che non hanno soldi? Ci sono i familiari, un sacco di carcerati hanno soldi. Sì, chi te l'ha detto che non hanno i soldi? Hanno i soldi per comprare il cibo, per comprare quello che vogliono e si fanno arrivare delle cose in carcere. Cioè, mettiamo delle prostitute a disposizione dei follia, carcerati. Ma le prostitute no, in carcere? No, ma assolutamente. Sì. Anzi, forse lo Stato potrebbe pagare delle prostitute, cioè l'amministrazione penitenziaria, a disposizione. Che senso ha fare una roba in cui poi c'è il sospetto che si possono dire delle cose segrete? Ovviamente non ci possono essere audio, non ci possono essere video a riprendere questa cosa. La cosa migliore sarebbe coinvolgere le prostitute del nostro paese per fare un grande servizio sociale. Cioè, ogni carcere deve avere a disposizione un plotone di prostitute, un esercito di prostitute, un battaglione di zoccole a disposizione dei carcerati per i loro istinti, per i loro sfoghi, che è giusto che in qualche modo abbiano una loro, no, che si possano, sì, per carità, ma questo nei posti civili è così, ma non liberare, cioè il diritto, sì, ma con alla le sessualità, fidanzate, con le mogli, certo, poi uno può scegliere, però deve essere proprio sicuro al 100% che quell'incontro è solo un incontro sessuale. Ma tu come fai a capire se quell'incontro però non si trasforma in qualcos'altro, cioè un passaggio di segreti, un passaggio di non è possibile, dai. È vero che ci sono anche i colloqui dove uno si può dire le cose, però i colloqui sono più o meno registrati, da Bologna, vai, 800 24 00 24. Marco, sì, buonasera a tutti. Allora, mi ha fatto sbellicare Giletti, che esordisce dicendo che la trasmissione va ascoltata, ma ha ragione De Magistris, madre di Dio, inascoltabile la trasmissione di Giletti, parla sopra la gente, lui per vabbè, primo. A te non piace, a te non piace la trasmissione di Giletti, questo ce ne faremo una ragione, cioè, no, non è questo, c'è una ragione, che uno non può esordire dicendo, lui che fa una trasmissione inascoltabile, dicendo bisogna ascoltare le trasmissioni, ma inascoltabile per te, ma che cazzo significa, Marco? Marco, scusami, cioè, significa che vuol dire? Quando uno parla sopra un altro non capisce più niente. E così Marco, è andata a te non l'altro piace, giorno ci sono... quando parlavano di Napoli. Marco, è andata così, non si è capito una mazza. A dimmi, te non piace, caro. Ci sono milioni di persone che apprezzano questa trasmissione, la vedono ogni domenica, ha degli ottimi ascolti, per la Rai va bene così. E dunque di che stiamo parlando? Stiamo parlando dei gusti tuoi. A te non piace la trasmissione di Giletti, l'Arena. Benissimo. Ma credo che un minimo di obiettività, quando due si parlano sopra, non si può ascoltare, o sì? Ma quello è un altro discorso. Qualche volta può succedere che due persone si accavallano, poi arriva il conduttore che sbroglia la situazione. Vabbè, ma il punto qual è? La trasmissione di Giletti, se ti piace o no, o quello che è successo, o le critiche che ha fatto a Napoli, le osservazioni banali che ha fatto su Napoli. Ho chiamato perché mi ha fatto sbellicare Giletti che è uscito con le trasmissioni, bisogna ascoltarle. Ma no, lui voleva dire le trasmissioni vanno ascoltate, nel senso che vanno ascoltati i passaggi integrali. Guarda, non lo seguo mai, ma domenica combinazione, era domenica, no, la trasmissione. Sì, ho beccato proprio il pezzettino dove parlavano di Napoli, ho detto l'ho cambiato perché non si riusciva a capire niente. Comunque pazienza, sarò io che sono limitato. Vabbè, ciao Paolo Padova, Paolo da Padova, sì. Ciao. Sì, ciao. Allora, io sono di Napoli, vivo a Padova. Sì, vivo a Padova anche per la cattiva politica che ha preceduto De Magistris. E voglio dire, io sono favorevole con De Magistris e di quello che sta facendo a Napoli. E poi dico, allora, a Giletti dico che si va a vedere la stazione di Torino che fa schifo e quando entri trovi carte per terra dappertutto. Poi a Salvini gli dico di vedersi un attimo Padova, visto che è governata dalla Lega, che c'è il centro dell'illegalità, del centro in grosso Cina qui a Padova, invece di parlare degli altri, che si vedono a casa loro. Cioè, quello è il discorso. Napoli, sì. Napoli purtroppo, adesso, caro Paolo, i sindaci come esistono negli Stati Uniti con i poteri che hanno, in Italia è difficile che spuntino fuori. È difficile cosa, che qui a Padova abbiamo limiti. Il centro dell'illegalità. Cioè, qui proprio adesso, tra due giorni a questa parte, hanno sequestrato oltre 250.000 capi di vestiario falsi. È qui a Padova, in centro in Grosso Cina, dove lì dentro c'è l'illegalità. E lì dentro a controllare, chi deve controllare dentro? Devo andare a controllare io. Sì, però ragazzi, questo è un altro discorso. Giletti ha fatto... No, io dico, parlare degli altri, che si guardano a casa loro. Vabbè, tu adesso ti riferisci a Salvini. Daniele da Milano, vai Daniele. Dimmi Daniele. Ciao, sono Daniele, Cucciani. Vai. Allora, io sono uno di quei vegani che è tornato indietro, di cui parlavi prima. Cioè, tu hai iniziato e poi con la carne, hai mangiato la sono carne. Sono tantissimi anni. No, diciamo che di carne ne mangio poca. Pochissima, però ho fatto 10 anni di veganesimo, vegetarianesimo, e di cui 3 di veganesimo, tirando via praticamente l'impossibile. Prevalentemente per una questione, pensavo, di benessere. In realtà poi c'avevi una fame? No, perché si può mangiare bene anche mangiando. Vabbè, allora perché ti sei pentito? Scusami Daniele, spiegami. Allora, prevalentemente perché penso che sia una contraddizione fortissima in quello che loro sostengono. Loro sostengono di essere a favore della vita sempre e comunque. Però io dico questo: se dovesse passare in un'ipotetica fantasia per legge a livello mondiale il pensiero, morirebbero nel giro di pochi mesi migliaia, se non milioni di persone. Certo. Perché penso ai pescatori dell'isola di Bali in Indonesia che vivono prevalentemente di pesca, penso agli esquimesi, penso ai pigmei che vivono solo esclusivamente. Sì, ma poi anche il mondo animale verrebbe travolto, perché ma è evidente, cioè il mondo vegano, come auspicano alcuni estremisti, cioè sarebbe la fine dell'umanità, cioè non hanno capito che il mondo vegano sarebbe la fine dell'umanità. Scusami, i vegani sono quasi tutti estremisti, io conosco tantissimi vegani perché ho frequentato anche centri di tipo spirituale, quindi ti posso garantire centri di tipo spirituale. Moltissimi non si siedono neanche al tavolo se mangi la carne, quindi più estremismo. Vabbè, quelli sono proprio quelli. Poi sono, vorrei dire, ma c'è gente, ci sono donne vegane che non scomano con uomini che non sono vegani. Ti posso assicurare? No, sì, come no? Ci sono donne vegane che ti chiedono scusa. A me è successo una volta, ti giuro. Cioè, sono uscito con una che era vegana. Ho conosciuto una ha trovato una scusa, dai. No, ho conosciuto una vegana. E a un certo punto che le piacevo e mi ha detto: senti, ma tu mangi la carne? Io ho fatto tantissimo, mi piace molto. Ah, beh, allora non possiamo uscire insieme. Ma è una scusa, dai. Ma no, ma non era una scusa, era la realtà. Una scusa, cioè, non gli piacevi più, ti ha visto in faccia, dice cazzo. Vabbè, Daniele, comunque, tu quanto è durato questo periodo folle di veganesimo? Scusami. Non ho capito, scusa. Quanto è durato questo periodo folle di veganesimo? Ma di veganesimo 2 anni. Ma stavi bene fisicamente? No, per questo ti stavo dicendo che i problemi di cui ho sofferto, di cui soffro, che sono dispepsia, emicrania aura, non sono migliorati per nulla, cioè non c'è stato nessun beneficio rispetto a questo. Però vorrei dire un'altra cosa ai vegani. Dimmi. Alcuni prodotti che vengono venduti nei supermercati, anche questi supermercati del benessere, sono prodotti fatti da aziende che sono di proprietà di ditte farmaceutiche, non voglio fare i nomi, che fanno più danni di gente che mangia la carne. Cioè chi è che fa più danni? Non ho capito. Fa più danni le aziende farmaceutiche che producono prodotti per i vegani. Quindi questa è un'altra contraddizione. Non voglio fare nomi di aziende che producono alimenti. Ma danni per da vegani. Che punto di vista? Spiegami. Beh, le aziende farmaceutiche, insomma, ci sono aziende farmaceutiche che... Ah, tu dici i prodotti vegani spesso vengono realizzati da multinazionali, da aziende... Esatto, alimentari che però in realtà sono di proprietà di multinazionali farmaceutiche. Io dico solo una cosa, vegano stammi lontano. Ragazzi, sono stato domenica a una grande fiera militare qui a Milano, dove ho incontrato il signor Beschini. Mamma, caro Parenzo, il signor Beschini, fascistone. Perché passi così le tue domeniche? Allora, aveva un enorme busto di Mussolini. Adesso pubblicheremo fra poco tutto sul sito della Zanzara. La Zanzara, insomma, non mi ricordo come cazzo è il sito, ma insomma andateci, la Zanzara, fate su Google la Zanzara Radio 24, entrate nel sito della Zanzara, dove ci sono alcune foto che pubblico col signor Beschini, tra cui un piccolo video in cui Beschini se la piglia con Fiano, dice che delle cose tremende su Fiano, e con un enorme busto bianco di Mussolini che ho acquistato, naturalmente pure Beschini, certo, mi ha regalato 2 bottiglie di vino. Ma quando? Ma sono cazzi miei, no, intorno ai 300-400. 400 euro? Certo. Cioè, hai buttato via 400 euro per comprare un enorme busto bianco di Mussolini, enorme. Ma perché non l'hai data in beneficenza? Bellissimo. O non hai offerto bellissimo. Una cena a una bella poi fidanzata? C'era, poi c'era, una cena di mi 400 ha regalato euro. Un paio di bottiglie di vino in cui c'è sopra un'etichetta di Hitler e un'altra un'etichetta di Mussolini che fa lui, un sangiovese. Ecco, quelle dovrebbero proibirle. Ma come fai a proibire una cosa del genere? Ma dai, con le etichette di Hitler. Il vino sei uno psicopatico. Ma no, ma io lo perché non ti non considero fa... uno psicopatico? Ma no, ma è straordinario, me l'ha regalata lui, quella la nuova comprata. Me l'ha regalata, diciamo, considero uno psicopatico uno che attacca Beschini. Delle etichette di poi a un certo punto c'era un venditore di cose di Mussolini, tra cui un piatto con sopra l'effigie di Mussolini, vari piatti, no? Il quale si dichiarava mussoliniano. Io, scusa, come fai a dichiararti mussoliniano? Però, cari amici miei, c'è un sacco di gente in Italia che si chiama Mussolini. Un sacco di gente in Italia che si chiama Mussolini. Tu lo sapevi? Sì, naturalmente, no? Sì, questo sì, sì. Secondo te, è un cognome da cambiare oppure no? Cioè, la gente a chiamarsi Mussolini, come si sente oggi in Italia? No, secondo me purtroppo si sentono, sono contenti o non lo so. Comunque, i nostri amici dei comuni italiani fanno sempre le stesse indagini. Volete cambiare cognome? È un cognome scandaloso? È un cognome di cui vergognarsi? Mussolini. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune. Sto cercando il signor Mussolini. Che cosa ha bisogno che ha letto in questo momento? Che non... Per una questione di immagine, di decoro, il comune ha deciso di cambiare alcuni cognomi. Perché dovrebbe cambiare cognome? Non ho mica capito perché. Il cognome Mussolini è un cognome piuttosto, come dire, ingombrante. Ma perché devi cambiare cognome, mica io? Io devo cambiare cognome. Chiedere come mai, se lo spiega te, che ne so. Sì, brava signora, ecco, se no facciamo il telefono senza fili. No, perché non riesce a capire perché lui dovrebbe cambiare, perché lui non lo vuole cambiare, lui tu vuole tenere quello che ha. Ma non ha un telefono wireless. Aspetti un attimo che arrivo. Chi cazzo sei? Per telefonare a casa mia a dirmi che io devo cambiare il mio cognome. Allora, ma chi sei? Signor Mussolini. Ma chi sei? Se adesso lei mi dà un attimino no, di lei tempo. Lei mi dà nome e cognome. E come sei? No? E come no? Io mi chiamo Rinaldi e la la chiamo dal comune, da Modena, e stiamo facendo una nuova campagna per tutti i comuni della provincia di Modena che cognomi che evidentemente creano qualche imbarazzo. Il suo, mi perdoni, signor Mussolini, ma crea... Il mio porta qualche imbarazzo? Sì, sì, evidentemente sì. Guardi che Mussolini ha fatto le pensioni, ha fatto le case popolari, invece voi stronzi li date agli extracomunitari. Ecco, guardi, voi no, stronzi. Io non ho detto, io non mi offeso. Pronto? Sì, buonasera, chiamo dal comune, parlo col signor Mussolini. Sì. È disponibile a cambiare cognome? No, ho capito, ma lei chiama a casa mia dicendo delle illazioni. No, illazioni, non sono, no, mi perdoni, no, qua non ci siamo, non sono illazioni. Io le sto proponendo legittimamente un cambio di cognome. Io dico francamente, me non ho tanto tempo da perdere. Sì, sì, neanch'io, se per quello lavoro. Lei non lavora, perché se stava lavorando non ha tempo di chiamare un'utenza privata. Basta dirlo, non le fa né caldo né freddo, me lo dice. Lei non ha capito, non ho capito, mi spieghi. Io le sto dicendo che a prescindere dalla questione storica, noi questo cognome, io era a prescindere che era un personaggio famoso o meno, a me non fa né caldo né freddo. Pronto? Sì, buonasera signora, chiamo dal comune, sto cercando il signor Mussolini. Non c'è. Quando posso trovarlo? Non lo so. Beh, avrà un'idea forse di quando torna. Ma che ne deve fare? Signora, c'è da cambiare il cognome? Noi, già è stato cambiato. Fa Mussolini, no. Quindi fate voi le ricerche dove dovete andare. Noi facciamo Mussolini, no. Avevi ragione tu, Davide, a parte questi che hanno cambiato da Mussolini a Mussolino, quello sei incazzato assai, ha detto Mussolini ha fatto le pensioni, certo, eccetera eccetera. Fermi tutti. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa, vi presenta La Zanzara. Ma guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara, oh, dai, chiudere subito, guarda, chiudere. I don't want your money, honey, I want your love. And I don't want your car, baby, I want your home. I don't want your friends, they don't need a mention. I just want your love and all of your attention. Allora andiamo a Bologna, Sergio, 800240024, vai. Buonasera, salve. Ciao, dimmi. Io volevo parlare della manifestazione che ci sarà domenica qui a Bologna di Salvini. Sì. Quella allora, invasione. L'invasione, la cosiddetta invasione leghista. Allora, sono tre settimane che il centro storico è imbrattato di manifesti, di scritte sui muri, di foto di Salvini impiccato, di ogni, no? Cioè si respira proprio un clima di tensione, questi centri sociali, questi quattro ragazzotti fuori sede che hanno in scacco una città da anni, no? Che fanno occupazioni continue, che hanno capito, che succede da qualche settimana, cioè hanno imbrattato la città, che qualcuno mette dei manifesti contro la visita di Salvini, cioè contro questa manifestazione, fanno riunioni, purtroppo succede, tengono assemblea, no? Ma il punto è questo, loro sono liberissimi ovviamente di fare quel che credono, no? Beh sì, sempre se rispettano le leggi, se non saltano sopra le macchine, se non fanno violenza, eccetera. Oh, meno male che dice che tu rispetti della legge, meno male. Sicuramente questi non lo faranno, perché loro modo rispetto la legge, perché ho sempre meno male. Ogni tanto dici no, ma la legge, ma come sempre la legge, cosa hanno fatto? Figuriamoci. Ma cosa c'entra? Ho detto semplicemente che se uno vuole fare dici a me. Ma dipende, che cosa. Ma che c'entra questo col contesto? Non ho capito. Qui è una cosa: se uno salta sopra una macchina o vuole impedire una manifestazione, quella è evidentemente e chiaramente una violazione di legge, no? Punto e basta. Cioè, non c'è da discutere. Quelli che salirono sopra la macchina di Salvini, molto probabilmente hanno commesso un reato, punto e basta. Vabbè, Sergio, qual è il punto? Allora, manca ancora. Siccome ci aspettiamo, cioè, si sta creando un clima di tensione ed è stato fomentato anche dal nostro geniale sindaco Merola, che praticamente in una sua intervista, in una sua dichiarazione, cioè legittima il fatto che qualcuno possa manifestare contro. Vabbè, ma dire che contro non è un problema. Però vi spiego, per fare una manifestazione contro qualcuno, vai in questura, chiedi il possesso di una piazza. Allora, quando c'è una manifestazione in una città, io proibirei tutte le altre manifestazioni, soprattutto se sono manifestazioni contro. No, ma secondo me vanno sicurezza. Ma no, ma è evidente che quelli fanno una manifestazione contro, ma io le proibirei comunque in ogni caso. C'è una grande manifestazione, non è necessario protestare o manifestare nello stesso giorno. Comunque, detto questo, poi se uno vuole manifestare, manifesti pure, per carità. L'importante è che le cose avvengano, no? Quello che ci aspettiamo. Ma ci aspettiamo chi? Cioè, che... Noi bolognesi. Voi bolognesi. È il casino, questo. Io sono la paura del casino. In qualche modo politico, quindi quello che mi aspetto io, come anche esponente politico, è che succedano scontri. Danni. Vabbè, vedremo. Sergio, è tutto annunciato comunque. È talmente annunciato che se succede qualcosa, io penso che la polizia possa infiltrare da qualche parte, possa avere le informazioni per impedire le violenze. Se succede, è un errore, qualcuno avrà sbagliato sicuramente. Poi non è che si può impedire a qualcuno di tirare un sasso, Si lamentavano prima di Napoli, no? Il problema che abbiamo a Bologna sono questi dei collettivi, delle università, che non sono neanche persone di Bologna, ma questo non vuol dire nulla, che ci rompono le palle da anni in questa città, imbrattano, sporcano e tengono in scacco ogni volta che c'è una manifestazione, qualsiasi cosa. Beh, però vi portano anche tanti soldini alla città, ai bolognesi, gli studenti in genere portano soldini, perché ad esempio affittano le case. Non è che tutti gli studenti fuori sede sono, per questo portano soldi alla città. Volta che questo qualcosa. Non c'entra niente, questo è evidente, però spesso quelli che si lamentano dicono gli studenti vengono qui, imbrattano, sporcano, sono gli stessi che poi affittano un appartamento a prezzi esosissimi agli studenti e ci guadagnano. Va bene, grazie Sergio. Giuseppe da Napoli, vai Giuseppe. Sì, pronto. Dimmi, buonasera. Dimmi. Buonasera a lei e al tanto bistrattato Parenzo. Vai Giuseppe, dimmi, dai. Volevo dire, parlare in merito alla faccenda di ieri successa lì all'Arena. Io sono d'accordo con lei sull'ovvio, su tutto quello che si è detto. Un po' a noi napoletani girano un po' le palle quando comunque sempre c'è da dire, e specialmente nella sua trasmissione è successo spesso anche con lo... Ma se per mesi e mesi, si è parlato di Roma, degli scandali di Milano, ma di che pare da settimane, da mesi che non si parla di Napoli? Perché dite stronzate? Si è parlato per mesi di Roma, della mafia, della zozzeria, di tutto, di che parli? Mi faccio dire una cosa. Dimmi. Anzitutto Napoli è una, in questo momento è una città piena di turisti ed è, lo è da tantissimo, di alberghi pieni, è una città bellissima con strade che funzionano, quindi tutto questo degrado, che dice anche il sociologo De Masi, da lei più volte intervistato, che addirittura si è permesso di dire non venite a Napoli. Anche lei lo ha detto, non consiglierebbe di venire a Napoli. Questa è un'offesa per noi napoletani. Vabbè, questo è un altro discorso. Aspetti, anche a Salvini, volevo dire una cosa su Salvini. Ultimamente Salvini a me personalmente da napoletano mi stava simpatico, perché evidentemente deve aver cambiato qualcuno che gli scrive le cose, o comunque il suo curatore d'immagine. Era più simpatico. Quando per radio dice al nostro sindaco, noi napoletani ci identifichiamo con De Magistris, che è una persona per bene, e dice un poveretto, prima di tutto offende noi napoletani. Secondo, sbaglia, perché quei napoletani che stavano guardando con occhio un pochino più appassionato a Salvini lo ributtano un'altra volta indietro. Quindi Salvini impara a comunicare e non offendere gratuitamente. Questo, vabbè, Giuseppe, Salvini fa politica, cioè non è che sta lì a pettinare le bambole. Gianfranco dalla provincia di Vicenza, vai. Sì. Dimmi, Gianfranco. Sì, Luciani. Sì, salve. Eccolo qua, dite, volevo dire, tu sei sempre bravo a parlare di qua, a parlare di là dei vegani. Io mi sono convertito al veganesimo da circa 15 anni. Benissimo. Beh, guarda, benissimo, per te naturalmente. Non ho mai fatto tanto amore come adesso. Cioè, hai tanto scopi di più? Scopo molto di più, ma molto di più. Scusa, non ho capito, qual è il collegamento? Stessa... Qual è il collegamento tra il veganesimo, essere vegani, e scopare di più? Digerire la verdura, digerire i cereali, digerire le mandorle. Sì. Il corpo è meno sottoposto a un processo di fermentazione intestinale, e dunque il cuore e tutta la circolazione sanguigna è più attiva, e dunque sei anche più tira di più. Se tu provi anche a fare l'amore con delle vegane o delle vegetariane vere, no, di quelle là che si dicono così e cos'ha, ma la persona è una persona più armoniosa. Amico mio, ma io perché devo ascoltare questo? Caro mio, non è mica solo scopare come intendi tu scopare, ma scopare la donna devi viverla. La donna devi viverla in toto. La donna è un essere umano. Vabbè, quello che c'entra? Chi dice? C'entra, sì, perché scopare e far l'amore sono due cose completamente diverse. No, ma tu forse questa cosa scusa, non già, l'hai ancora capita? No, ma Gianfranco, non ho capito bene. Adesso stiamo parlando della solita cosa di cui si discute da 50 anni, scopare barra amare, oppure stai parlando della influenza del veganesimo nella tua vita sessuale? Perché sono due cose un po' diverse. Il veganesimo nella mia vita sessuale ha avuto un'influenza molto profonda. Sì, prima facevo l'amore una volta a settimana, adesso quasi tutte le sere, ma quasi due volte mai, al giorno. Ma Gianfra, ma non è che dipende dalla dieta vegana, dai, su. Ma guarda che non è cambiato altro nella mia vita, non è cambiato altro nella dicendo, mia vita. Ma stai dicendo delle follie, dai. Assolutamente no, ma devi documentarti e dai. Dopo devi provare. Cioè, non ho capito. Tu stai... provare. Se una cosa non la provi, come fai a saperlo? Tu stai dicendo. Ma non basta un mese, non basta un mese, non basta una settimana, perché dopo vai. Ma adesso spiegami. Proteica. Se tu fai veganesimo per un mese, vai in insufficienza proteica. Perché il tuo corpo deve convertirsi lentamente. Sì. Quando hai preso i ritmi giusti e c'hai anche le conoscenze. Giuste per fare il passaggio, intanto non torni più indietro, perché tornare indietro a rimangiare cadaveri morti è una follia. Aridaglio con questi cadaveri, okay. Aridaglio con questi cadaveri. Ma detto, tu l'animale non lo ammazzi mica, non li tagli mica la gola prima di fargli una salsiccia. Dai, smettila. Cioè, non l'hai mai visto. Ma chi se ne frega? Sì, perché prova a passare per la strada e guardare questi poveri capannoni. Di animali, sì, la solita storia, la solita tiritera, la solita cantilena. Dai, abbiamo capito gli allevamenti, le cose, il grido degli animali mentre muoiono, la sofferenza e queste robe qui. Lo sappiamo già, tutte puttanate. Dai, Gianfranco, io voglio capire una cosa. Spiegami com'è cambiato il tuo modo di fare l'amore, chiamalo come ti pare, scopare, trombare, fare l'amore. Gianni, tu devi guardare in maniera obiettiva. Ma com'è cambiato? Spiegami. Fate una ricerca per verificare l'efficienza sportiva di un vero vegano. Ma non è vera anche questa cosa, se fosse vera questa roba qui, tutti gli atleti che vogliono avere delle grandi performance si trasformerebbero in vegani da un giorno all'altro. No, Gianfranco, su, non è che l'unica strada. Ci vuole la cultura sotto, bisogna saperle le cose. Gianfranco, com'è cambiato il tuo modo di fare l'amore o di trombare, chiamatelo come volete. Ma spiegami. È molto più intenso, è molto più duraturo, è molto più lungo. Ah, lo fai al più a lungo, lo fai più a lungo. Se riesci anche a gestire. Ah, sì, a gestire. Cioè vieni quando ti pare, in sostanza. Bravo, esatto. Ma vedi che io lo spiego in maniera chiara, Bravo. Cioè, complimenti. Cioè riesci a gestire il tuo piacere, diciamo, no? Riesci a gestirlo. Riesci a gestirlo. Invece prima no. Era più istintivo. Ma grazie era anche per averlo detto alla radio da noi, grazie della testimonianza, caro. Ma perché qual è il problema? Ottimo. No, bene, grazie. Ha testimoniato, ha spiegato la sua esperienza, non c'è niente di male, anzi strano. La zanzara è fatta apposta per questo. No, ma dico, ma lei sta a questo punto andiamo a fondo. È sempre la stessa questa persona. Ne ho cambiate di più di persone in questo periodo, però tutte mi sono scelto sempre vegane o vegetariane. Vegane. Bene. Perché sono persone più armoniose. E glielo chiede prima. Cioè lei vede una ragazza carina per strada. Ma io quando parlo con una vegana. Le volte che mi è capitato di parlare con una vegana, ho sempre avuto l'impressione di parlare con i matti. Ti giuro, cioè no, quando parla, sì, ti giuro, sarò capitato male. Sicuramente vegani, non sono tutti matti. Vegani non li ho mai conosciuti. Io ho conosciuto diverse ragazze vegane. Stiamo parlando di donne, ma anche di uomini. Ho sempre avuto l'impressione della follia. Ho sempre avuto la prima impressione questa, ma questo qua c'è qualcosa. Ah, no, l'altra sera a cena ho conosciuto forse un vegano. Ma evidentemente sarò capitato male, cioè sarà successo che ho incontrato delle persone strane, sicuramente non sono tutti così, però. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Hey Mac, get off my back, didn't ask your advice. There's too much heat out in the street, telling us to move along. Gonna be a long, hot summer from now on. Hey man, don't understand. aspetta, eh. E dai, rispondi. Va bene, dai, Carmine, Napoli, dai. Ciao Parenzo. Dimmi. Senti, io sono napoletano d'adozione, in quanto pur non nativo di qua, ho sposato una napoletana e sono parecchi anni che ci vivo. Sì. Questo piagnisteo che fanno i miei concittadini di Napoli, una città con gli stessi problemi, veramente basta, non ha più ragione d'essere. A Napoli, se giri, ogni 20 metri trovi uno che si fa una canna, un parcheggiatore abusivo, un abusivo che vende sulle bancarelle, vigili urbani che sono una cosa indecorosa. Guarda, vorrei fare veramente una pagina Facebook sui vigili urbani con riprese e fotografie. Stanno a gruppi di 5-6 e stanno beatamente a godersi il sole che questa splendida città ci offre per parecchi giorni all'anno. Per cui è inutile che continuiamo a piangerci addosso. La realtà è che c'è un tasso di illegalità nettamente più elevato delle altre città. Punto e basta. Ecco, se uno lo dice diventa un infame e viene minacciato. Va bene, Alessandro da Prato, vai. Alessandro. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. No, volevo fare una precisazione verso Parenzo. In questo senso, siccome per lui la parola ebraccio è un'offesa, ma non per me, cioè basta vedere sul vocabolario, ma mi pare talmente idiota anche da discutere. Sì, però io adesso faccio un esempio: se uno dice toscanaccio, no? Quel toscanaccio maledetto, è evidente che se tu dici ebreaccio ha tutta un'altra connotazione, la storia, eccetera, eccetera. Anche se tu dici toscanaccio maledetto, poi lui ha aggiunto che stiano lontano da me gli ebrei, ma è meglio starne lontano. In questo caso non si può neanche discutere, purtroppo, perché non c'è discussione, no. Ma è in tutto ingiustificabile. Parezzo. È un dato di fatto che è una cosa detta con disprezzo. È una settimana che c'ha la tosse, non manco respira. Alessandro, dai, forza. Aspetta. Niente, non risponde. Allora Alessandro, che dicevi? Stavo dicendo a Parenzo, è un modo di dire in toscano alla buona, non offensivo. Come dire, quando ci fu lo scandalo di Voitiraccio, ti ricordi? Ma non c'entra niente, è una cosa diversa, non è neanche da discutere in questo caso. Scusami Parenzo, perché è un'offesa dire ebreaccio o voitiraccio? È un modo di dire alla buona. Ma che c'entra la Toscana? C'entra Tavecchio. A parte che quello non è toscano, Tavecchio, primo, cioè è di Ponte sull'Ambro, cioè è lombardo. Ma non c'entra niente, c'entra anche il contesto, no? Il contesto è un contesto anche discutibile, anzi il contesto se lo citi va a vantaggio di Tavecchio, perché è un'intervista, non si sa bene se è registrata con la consapevolezza di Tavecchio oppure no. C'è una sorta di conversazione. Il contesto dimostra che lo dice con assoluto disprezzo rispetto a questo stimatissimo immobiliarista, peraltro di 80 e passa anni, che avrebbe comprato la sede della cosa. E l'ho detto in quel contesto lì, come dire: ah, ecco i soliti ebrei che trafficano col denaro. È detto, ma non c'è neanche da spiegare, cioè mi fai anche incazzare, mettimi a spiegare una cosa che è talmente ovvia. È evidente che lui lo dice. Però per carità, se anche questo non è ovvio, uno che deve fare. È ovvio il fatto che lui pensa che gli ebrei siano tutta gente che tratta fino all'ultimo coi soldi, come se non lo facessero anche gli altri. Ma questo è il senso di quella roba, per cui per questo assume un carattere dispregiativo. Sì, è vero anche che non è Benigni che diceva Voitiliaccio, no? Non è il Benigni dello spettacolo. Sì, ma le battute sugli ebrei si sprecano oggi, eh? Cioè, le fanno tutti le battute sugli ebrei tirchi, cioè sugli ebrei che trattano, non è che sugli ebrei attaccati ai soldi, sugli ebrei che hanno molto a cuore il denaro. Ma è uno stereotipo del cavolo, sì, assolutamente, come dire dei genovesi, come dire però è pieno di battute da tutte le parti. Il fatto che lo dica il presidente della Federazione del Gioco Calcio certamente non va bene, cioè come il fatto che dice che i gay non sono normali, perché dici io sono normalissimo, dunque i gay non sono normali, ma forse non è normale lui, no, i gay. Anna, provincia di Monza, vai. Buonasera, due cose, una premessa, ho 52 anni e vivo in Brianza da quando ne avevo 8 anni perché sì. Io, e sono di origine cilentana e ne sono orgogliosissima, per cui non è un discorso di che si può dire nord e sud, assolutamente no, però mi sono recata a Napoli un paio d'anni fa e col camper, e le paure erano quelle del camper, dove poterlo parcheggiare . E dopo tante ricerche tramite camper online, alcune commenti che lasciano sempre i camperisti, dove spostarci, dove poter parcheggiare, allora... siamo riusciti a trovare il posto. Però noi che abbiamo girato la città, nella zona centrale niente da dire, pulito, però noi eravamo su a Capodimonte perché il parcheggio era sopra dove c'era l'ospedale . Il CTO mi sembra che si chiami, cioè noi abbiamo trovato un coprifuoco, cioè la sera ci hanno detto non uscire, alcuni turisti che abbiamo chiesto delle zone da visitare, loro gentilissimo, ho trovato la gente molto gentile, però napoletani che mi dicevano non uscite. Abbiamo trovato i Pulma, che era una zona d'estate, per cui c'era anche un discorso di vacanzieri, la città non era molto piena, però durante il giorno si poteva vivere, ma la sera sui Pulma c'era una paura, cioè di potersi muovere. Io dico, dire che Napoli è sicura, cioè i napoletani stessi ce l'hanno detto, noi eravamo nelle piazze, Piazza Dante, ci hanno detto no, non fate quel corso perché a quest'ora non è indicato, io non so neanche dov'è Piazza Dante, eravamo lì col Pulma. Ho capito, Anna, sono le cose che avete sentito dai napoletani durante i vostri giri. Ivan, provincia di Torino, dai Ivan. Ciao parente. Ciao Ivan, dimmi vai. Parlo con voi. Allora, vi volevo ringraziare perché mi avete cambiato la vita. Perché? Perché io ebbi un incidente 2 anni e mezzo fa mentre ascoltavo la Zanzara. E perché ti abbiamo cambiato la vita? Anzi, l'abbiamo rovinata. Perché? Vabbè, ne sono uscito illeso. La macchina distrutta e da lì proprio la mia fidanzata. Chissà quante persone hanno avuto un incidente sentendo la Zanzara. Ma esatto. Speriamo poche. Allora, la statistica magari, no? Si è rivelata per quello che era la mia ex fidanzata. Cioè, in che senso, scusa? Grazie a questo incidente? Che ci teneva più alla macchina che a me. Addirittura. Cioè, grazie a questa roba hai praticamente ti sei lasciato con la tua ragazza e la tua vita è migliorata. Sì, è migliorata perché finalmente sono libero e sono felice. E adesso stai con un uomo, che fai adesso? piacerebbe a te, eh? No, a me no, figuriamoci. Cosa fai adesso? Sei vegano? Benissimo. No. Hai chiesto se sono vegano? Sì, no, non lo so, cosa sei adesso? La vita è cambiata? No, sono vegetariano. Vedi, però. Da 1 anno e mezzo, felice di esserlo. Ecco. Però voglio dire, la vostra trasmissione, perché o mi state sulle palle tutti e due, ma più che altro Cruciani che Parenzo. Sì. Che Parenzo è un puro, no? Però voglio dire. Io sono sporco, schifoso, cattivo. Sporco, cinico, senza morale. Cinico, sì. Sì, senza morale. Un estremista. Ma sì, ma va bene anche questo. Tu rispecchi quella che è la trasmissione newyorkese famosissima di quella trasmissione radiofonica che seguono tutti, ma perché anche se lo odiano, perché vogliono sapere che cosa dice, che cosa combina. Vabbè, Ivan, allora, ma al di là di questo ringraziamento, perché ti abbiamo fatto lasciare con la ragazza e dunque la tua vita è migliorata, adesso che fai? Sei single? Quanto scopi, per esempio? Ma cioè, hai una vita sessuale migliorata col vegetarianesimo oppure no? Non posso fare un... No, diciamo molti che dicono che migliora la vita sessuale diventando vegani. Ma io sono d'accordo, perché... Ma che d'accordo, ma che... Ma sì, ma cioè il corpo si depura, il corpo si depura, certo, dici. Ma certo che è così. Bah. E poi comunque, per quanto tu voglia essere, voglio dire, contro queste cose qui, lo sai benissimo anche tu che se non si fa del male a qualcuno, si migliora, anche se è un animale. Ma per me quando si tratta di cose da mangiare non c'è animale che tenga. Ciao Ivan, ciao. Allora ragazzi, abbiamo con noi una napoletana, la donna della spaccata, Lisa Fusco. Ciao Lisa, come stai? Ciao, cara Lisa, che fine hai fatto, amica mia? Che fine hai fatto? Mi sono caduta. Ma che te sei inventata stavolta? Che hai fatto di recente? Che te sei spaccata? L'altra volta era il gomito, stavolta che te sei spaccata? Non mi sono inventata niente, perché è tutto vero, ci tengo a precisarlo, perché sai... Ci sono delle anatre in giro che hanno messo voci. Le anatre? Chi sarebbero le anatre? La selvaggina sta bene soltanto in cucina. La selvaggina del... perché ti ha fatto quello scherzetto. Vabbè, ma la gente copia le altre trasmissioni con gli scherzi. Che vuoi fare? Lo voglio ripetere che comunque è tutto vero. Tu eri un po' offerta per spaccarti una gamba, credo che fosse, non mi ricordo. Per fare la gag. Gag comica, in un programma comico. Io sono pagata per questo, ma poi è una cosa che uno dice sì, sì. A Napoli si dice sì. è senza peccata. Dice sì, è senza peccata. Ho detto sì, sì, poi domani si vedrà. E invece ti hanno fatto passare come una che fa finta di spaccarsi la gamba ma non è in cambio di 10.000 poi... euro. Però ma da guarda che io fino ad ora non ho guadagnato un euro da questo fatto. Facendo delle assicurazioni. No, non ho chiesto neanche danni, non ho fatto niente, sto soltanto pagando... Per queste terapie che sto facendo, che comunque alla fine. La selvaggina ti ha fregato con lo scherzetto, amica mia, ti ha fregato con quello scherzetto. Lei deve fare la protagonista del film Cattivissimo Me. Vabbè, ma quello gli fai un complimento se gli dici che è cattiva, cioè, non è vabbè, che... i complimenti si fanno quando sono veri. Comunque, vabbè, amica mia, io non l'ho capito bene. Dopo questa vicenda del gomito, che cazzo stai facendo tu? Sei ancora in convalescenza? Io sto facendo la terapia, sì, perché purtroppo sto facendo questa terapia al braccio, la magnoteterapia, non mi ricordo come si chiama, comunque sto facendo queste cose. Ma non era meglio invece di fare queste cose che raccoglievi l'invito di Rocco Siffredi a fare i film porno, scusa? No, anche quello, facevo la spaccata su allora lui mi aveva fatto la proposta di fare la spaccata su uno dei suoi attori, a quel punto penso che sicuramente si sarebbe spezzato qualcos'altro, non certamente il mio gomito. No, si sarebbe spezzato diciamo qualche altra cosa. Che immagine terribile. Però scusami Lisa, ma hai ancora qualche aspirazione, cioè, ancora ti viene in mente questa cosa del porno, sì o no? No, ma assolutamente no, quella era una provocazione. Perché sempre provocazione, ma ci sarà un qualcosa di vero, cioè, ma tu come campi? Cioè, come ti procuri da mangiare ogni giorno? Come campi? Cioè, sei ricca di famiglia? Ogni tanto compari in qualche trasmissione, da qualche parte? Balla, canta, che fai? Come campi? No, diciamo che io oltre la spaccata ballo e canto. Balli e canti. Cioè, quanto guadagni in vita tua? Faccio degli show fuori dall'Italia, perché in Italia non mi permettono di lavorare perché sono bassa. Perché sei bassa. E fanno lavorare soltanto le persone alte. Sì, sì, perché purtroppo in Italia va più l'aspetto fisico che il contenuto, mentre in America contrario. Vabbè, ma poi questo è un altro discorso, dai. Senti, è un altro discorso. C'è la fuga dei cervelli, delle gambe in questo caso. Senti, ma De Magistris, hai saputo questa polemica tra Salvini e Giletti? Ecco, Giletti, che ti pare di Giletti? Ha detto queste cose su Napoli? Guarda, io invito Giletti a venire qui a Napoli, sì? E a venire con noi napoletani a pulire Napoli, perché se ci tiene così tanto, già c'ho pronta la scopa per lui, fino a spazzare un po' alla stazione qui di Napoli. Però è brutto che lui comunque si butti fango su una città che poi non si conosce veramente, perché io ci vivo, io abito vicino alla stazione centrale. E non è vero che è pieno di monnezza nei vicoli, come dice Giletti? È tutto pulito. No, ma assolutamente, ma poi a parte... Ma qua ogni città c'ha gli scheletri, i propri scheletri nell'armadio. Cioè, tu dici Napoli alla fine non è così terribile come la dipinge ma Giletti. Ma no, perché ti dico la verità, anche io di sera se vado da un'altra parte, se vado per esempio in un'altra città, anche io diciamo posso spaventarmi la sera per strada a prendere un pullman da solo. Sì, ma non trovi quello che c'è a Napoli. Per cui tu dici Giletti venga a Napoli e si metta a pulire. Ma a Napoli non ci sta, guarda che a Napoli non è il Vietnam, Napoli è la città più bella del mondo. È internazionale. Sì. Napoli ma non è che una persona si sveglia la mattina, sì, visto perché si deve nascondere dietro altri uffici politici e butta subito fango su una. Cioè tu dici Giletti e Salvini, ma tu voteresti mai Salvini? O ti fa poco schifo? Mai. Però ti voglio dire una cosa, ma io non voterei nessun politico, perché in Italia mo a parte di Giletti, a parte la città da cui provieni, sono uno più, diciamolo che non ci stanno persone oneste. Io posso soltanto dirti che De Magistri è un sindaco che a Napoli veramente sta facendo cose bellissime. Ah, tu sei a favore di De Magistris? No, io non sono a favore ma di nessuno, no? Scusa, ma sono a favore di cose che si fanno per la città. Ah, una grande notizia è arrivata, ragazzi. Parenzo, Vanna Marchi torna libera. Torna libera Vanna Marchi. Non era già libera di lavorare nel suo. Sì, quello bar. Sì, però aveva ancora l'obbligo di firma. Doveva esserci il fine pena, no? Torna libera e farà un programma notturno dalle 23 alle 24. Non si sa bene, non si sa bene l'emittente, però l'ho detto a Lanza. L'ha detto a Lanza. Com'è che fa? Ti prego. Ma c'ho la gola rovinata. Dai, fallo un attimo. D'accordo. Non c'è. Sono tornata libera. Com'è che fai, Lisa? Lisa? D'accordo. No, prima Lisa, vai, è tornata. D'accordo? Vai. Oh, lo fa la grazia. È brava, sì. fa anche la spaccata, oltre alla spaccata fa anche... lo diamo a Giletti, lo so di pancia. Eh? Che hai detto? Lo diamo a Giletti, sì, è vero che Papa Lagnele, sì, è vero che dice abbiamo per Giletti, sì certo, per Giletti, prendiamo da Giletti. Ma ha fatto una dichiarazione all'ANSA. Ah, vabbè, l'ANSA è tornata libera, l'ANSA l'ha chiamata, è normale, dai, su, ma non mi sembra mai. Hai visto chi deve lavorare? Poi una povera ragazza. Una dichiarazione all'ANSA. Vabbè, adesso non fare la vittima, Lisa, dai, su, non fare la vittima. Diventa vegana. Diventa vegana, iscriviti al PD. Se vuoi lavorare, iscriviti al PD. Diventa vegana. Tu sei vegana. Sono vegetariana. Pure tu sei vegetariana. Sì, meglio di no, il vegano un po' troppo pesante. Ma ragazzi, ma perché non c'è una persona normale che mangia in maniera equilibrata senza diventare vegetariani, vegani? Ma tutte quelle persone che fanno spettacolo, che tutti quanti o vegetariani o vegani, ma vaffanculo, va. Lisa, io non ho capito una cosa. Senti, sei fidanzata? Sei fidanzata o no? O ti sei lasciata recentemente? Mi sembra che ti sei lasciata o no? Allora, sì, ma questa è una cosa, sai come si dice a Napoli? D'accordo! D'accordo? Dai, più acuto. Come fa, Parenzo? Com'è? È tornata lei? D'accordo? D'accordo? D'accordo? Com'è che fa? Mandatelo un po', D'accordo? Beh, stupendo. Tornerà con un programma. Ciao Lisa, ti devo salutare, però voglio sentire Costanzo dalla provincia di Foggia. Vai, Costanzo. Sì, buonasera, grazie di avermi richiamato. Dimmi, vai, veloce, vai, dimmi. Veloce, niente, volevo dire che è proprio vero che i napoletani sono truffatori e sono della gendarmeria. Vabbè, dai, Costanzo, queste sono stronzate, dai. Aspetta, fammi finire un po'. Venisse il sindaco di Napoli a vedere che cosa hanno combinato agli agricoltori dei foggiani, che non li hanno pagati, sono truffatori. Non hanno mai pagato. Gli agricoltori Foggia, ma di che stai parlando? No, cioè... sto parlando dei prodotti che hanno dato, che ogni volta che, per esempio, i pomodori che sono proprio. I pomodori, ma che ne so? Ma le truffe esistono ovunque, certo, a Napoli sono abbastanza specializzati, come dire. Ci sentiamo domani 18:30, ciao! Caro mio, non è mica solo scopare come intendi tu scopare, ma la donna devi viverla in toto, la donna è un essere umano. Scopare e far l'amore sono due cose completamente diverse. Ma tu forse questa cosa non l'hai ancora capita? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Radio 24, la passione si sente.